Dopo aver veleggiato per molti giorni e per molte notti, ho capito che l'Occidente non ha termine, ma continua a spostarsi con noi e che possiamo inseguirlo a nostro piacimento senza raggiungerlo mai. Così è il mare ignoto che sta oltre le colonne, senza fine, sempre uguale, dal quale emergono, come la piccola spina dorsale di un colosso scomparso, piccole creste di isole, nodi di roccia perduti nel celeste. Sono isole vulcaniche, però verdissime di vegetazione rigogliosa. In pieno Oceano Atlantico, a circa metà strada fra l'Europa e l'America, ad una latitudine nord che varia da 36 gradi 55 a 39 gradi e 44 e ad una longitudine compresa fra i 25 gradi e i 31 gradi, è situato l'arcipelago delle Azzorre, formato da 9 isole: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores, Corvo. L'arcipelago si estende per circa 600 chilometri in direzione nord-ovest. Monti di fuoco, vento e solitudine, così le descriveva nel Cinquecento uno dei primi viaggiatori portoghesi che vi sbarcò. La prima isola che si incontra, vista dal mare, è una distesa di verde e nel mezzo vi brillano frutti come gemme e a volte strani uccelli dalle piume purpuree si confondono con essi. Le coste sono impervie di nera roccia abitata da falchi marini che piangono quando cala il crepuscolo e che svolazzano inquieti con aria di pena sinistra. Le piogge sono abbondanti, il sole impietoso. E per questo clima e per la terra nera e ricca, gli alberi sono altissimi, i boschi lussureggianti, i fiori abbondano, grandi fiori azzurri e rosa, carnosi come frutti che non ho mai visto in nessun altro luogo. Dalle coste aspre di quest'isola si gode la vista di montagne impervie caratterizzate da sorgenti calde e fumaioli profondi dove gli abitanti nei giorni di festa usano calare degli enormi pentoloni con carne e verdura per cucinare il cosido, un ottimo bollito a vapore. Il luogo di cui parlo è l'isola di Pico. Il piccolo ferry attracca al pontile è domenica e molte famiglie si spostano fra le isole più vicine con ceste e fagotti. Dai canestri escono ananassi, banane, bottiglie di vino, pesci. All'Ages c'è un piccolo museo delle balene. È nella strada principale della cittadina, al primo piano di una nobile casa restaurata. Mi interesso principalmente degli oggetti in avorio che i balenieri anticamente lavoravano e poi dei libri di bordo. Su una parete ci sono alcune vecchie fotografie. In una c'è scritto L'Ages, 25 de decembro 1919. Mi domando come hanno fatto a trascinare il capodoglio fino al sagrato della chiesa. Ci devono essere volute alcune coppie di buoi. È un capodoglio spaventosamente grande, pare incredibile. Ci sono 6 o 7 ragazzini che si sono arrampicati sul capo, hanno appoggiato al muso una scala a pioli e di lassù sventolano cappelli e fazzoletti. I balenieri sono in fila in primo piano con aria fiera e soddisfatta. 3 portano un berrettino di lana con il pompon. Uno di loro deve essere il mastro, ha uno strano cappello di tela incerata a foggia di pompiere e un sorriso appena accennato. Sono tutti scalzi, solo il mastro calza degli stivali. Immagino che poi tutti uscirono dalla fotografia, si tolsero il cappello ed entrarono in chiesa per assistere alla messa. Gli arpioni appoggiati al muro esterno, uno accanto all'altro, come si appoggiano le biciclette. L'enorme massa lucida e scura della balena, abbandonata sul sagrato, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Così passò il Natale a Pico nel 1919. Branco di 6 o 7, mi dice il signor Carlos Eugenio, mettendo in mostra nel sorriso soddisfatto una dentiera così smagliante che mi viene fatto di pensare che se la sia costruita da solo con avorio di capodoglio. Il signor Carlos Eugenio ha 70 anni, è agile, ancora giovanile, è mestre baleiro, che alla lettera significa mastro baleniere. Ma in realtà è il capitano di questa piccola ciurma e ha potere di decisione assoluta su ogni operazione della caccia. Maria Manuela, la lancia motore che guida la spedizione di sua proprietà, è una vecchia barca di una decina di metri che lui manovra con molta calma, tanto dice le balene stanno sguazzando e non scapperanno. Ha lasciato aperto il contatto radio con l'osservatore che si trova su un faro dell'isola e che ci guida con voce monotona e leggermente ironica, mi pare. Un po' più a destra, Maria Manuela, dice la voce stridente, stai andando dove ti pare. Il signor Carlos Eugenio fa un gesto di stizza, ma ride ancora. Poi si rivolge al marinaio, che è con noi, un uomo magro e svelto, quasi un ragazzo, dagli occhi mobilissimi e la carnagione scura. Guardiamo da noi, decide, e spegne la radio. Il marinaio si arrampica agilmente sull'unico albero della barca e si appollaia sul trespolo della sommità incrociando le gambe. Butto uno sguardo alla scialuppa che stiamo trainando. I balenieri sono tranquilli, ridono e parlano fra loro, seduti sulle tavole stese di traverso sulla barca. L'arpioniere, invece, sta in piedi e segue con attenzione i gesti del nostro avvistatore. È un uomo con una enorme pancia e la barba folta. non deve avere più di 30 anni, lo chiamano Sciapreto, cioè tè nero, e di Orta. Dicono che è un arpioniere di eccezionale abilità. Mi accorgo della balena quando essa è a non più di 300 metri, una colonna d'acqua che spruzza contro l'azzurro come quando si rompe una tubatura nella strada di una grande città. Il signor Carlos Eugenio spegne il motore e la lancia continua a marciare per inerzia verso quella curiosa forma nera che pare un'enorme bombetta sull'acqua. Nella scialuppa i balenieri in silenzio si preparano alle operazioni di attacco, remano con bracciate vigorose, in un attimo sono lontani, compiono un giro largo, puntano sulla balena di fronte, se l'avvicinassero dai lati sarebbero esposti ai suoi occhi. Quando sono a un centinaio di metri, tirano i remi in barca e alzano una piccola vela triangolare. Tutti manovrano vela e corde. Solo l'arpioniere è immobile sulla punta della prua, in piedi, con una gamba flessa in avanti e l'arpione imbracciato come se lo soppesasse. Aspetta con concentrazione il momento propizio, quello in cui la barca sarà abbastanza vicina al cetaceo da consentirgli di colpirlo in un punto vitale. In pochi secondi tutto si compie con stupefacente rapidità. La barca fa una sterzata improvvisa mentre l'arpione sta ancora descrivendo in aria la sua parabola. Lo strumento di morte non viene scagliato dall'alto in basso, come mi aspettavo, ma dal basso in alto, come un giavellotto. Ed è l'enorme peso del ferro e la velocità della ricaduta a trasformarlo in un proiettile micidiale. Quando l'enorme coda si alza e frusta prima l'aria e poi l'acqua, la scialuppa è già lontana. I rematori hanno ripreso a remare con furia e uno strano gioco di funi che finora si svolgeva sotto l'acqua mi fa capire all'improvviso che anche la nostra lancia è collegata all'arpione, mentre la scialuppa baleniera ha mollato il suo cavo. Da un cesto di paglia posto in una cunetta nel mezzo della lancia comincia a srotolarsi una grossa fune che sfrigola guizzando in una forcella della prua. Un marinaio provvede a refrigerarla con un secchio d'acqua finché non si laceri per l'attrito. Poi il cavo si tende e noi partiamo di scatto con un balzo dietro alla balena ferita che fugge. Il signor Carlos Eugenio regge il timone e mastica il mozzicone di una sigaretta. Il marinaio, dalla faccia di ragazzo, sorveglia preoccupato i movimenti del capodoglio. Regge in mano una piccola ascia affilata, pronto a recidere il cavo nel caso che il cetaceo si inabissi, perché ci trascinerebbe con sé sott'acqua. Ma la corsa affannosa dura poco, forse neppure un chilometro. La balena si ferma di botto come esausta. E il signor Carlos Eugenio deve azionare l'elica al contrario per non finire addosso al cetaceo immobile. «Lo ha preso bene», dice con soddisfazione, mentre la balena, fischiando, solleva completamente il capo e respira. Il getto che sibila per aria è rosso, rosso di sangue. Sul mare si allarga una pozza vermiglia e un pulviscolo di gocce rosse portato dalla brezza arriva fino a noi e ci sporca il viso e i vestiti. La scialuppa dei balenieri si è accostata al fianco della lancia. Sciapreto butta sul ponte i suoi strumenti e poi sale con un'agilità insospettabile per un uomo della sua corporatura. Capisco che vuole partire per l'attacco successivo dalla lancia. Si piazza a prua nella sua posizione di lanciatore di giavellotto. Ha cambiato l'arpione con uno strumento delle stesse dimensioni, ma dalla punta affilatissima a forma di cuore allungato, come una alabarda. Ci dirigiamo sulla balena che respira immobile nella pozza di sangue mentre la sua coda inquieta schiaffeggia l'acqua con movimenti spasmodici. Questa volta lo strumento di morte cala dall'alto verso il basso, scagliato obliquamente a trafiggere la carne molle come se fosse burro. Un tuffo. La grossa mole sparisce agitandosi sott'acqua. Poi affiora di nuovo la coda impotente e penosa come una vela nera E infine il grosso capo emerge con il suo grido di morte, un lamento acuto come un sibilo stridente, struggente, insostenibile. La balena è morta, galleggia immobile. Il sangue coagulato forma un banco che pare corallo scintillante alla luce del tramonto. Non mi ero accorto che il giorno era alla fine. «Ci vorrà una notte intera per rientrare», dice il signor Carlos Eugenio. «È un capodoglio sulle 30 tonnellate e la lancia dovrà andare a passo molto ridotto». In una curiosa cordata marina guidata dalla lancia e chiusa dalla balena, ci dirigiamo verso l'isola di Pico. È calata la notte. Il signor Carlos Eugenio mi offre una sigaretta e mi parla dei suoi due figli che sono emigrati in America, che non vede da 6 anni. Sono tornati una sola volta, mi dice. Forse torneranno l'estate prossima. Vorrebbero che andassi da loro, ma io voglio morire qui, nella mia isola, a casa mia. Fuma lentamente e guarda il cielo stellato. «Ma lei perché ha voluto partecipare a questa giornata?» mi chiede. «Per semplice curiosità?» Vorrei rispondergli la verità, ma mi trattiene il timore che possa essere offensiva. Lascio penzolare una mano nell'acqua. Se allungassi il braccio potrei quasi toccare l'enorme pinna dell'animale che stiamo rimorchiando. Forse perché siete in estinzione entrambi, gli rispondo alla fine a bassa voce, voi e le balene. Credo che sia per questo. Probabilmente si è addormentato, non replica nulla, ma fra le dita gli brilla ancora la brace della sigaretta. La vela schiocca in maniera lugubre, i corpi dei balenieri immobili nel sonno sono piccoli mucchi scuri, e la scialuppa scivola sull'acqua come un vascello fantasma. Possível num barco de quatro pés. Si tratta di un bar molto speciale, con una clientela davvero varia. Basta osservare i piedi degli avventori, scalzi quelli dei pescatori del luogo, con eleganti mocassini da barca quelli dei signori di passaggio. Sulla bacheca alle spalle del bancone, misteriosi annunci di navigatori solitari che si scambiano informazioni decifrabili solo da loro, come i marconisti. In quel luogo suppongo di aver incontrato un uomo e alle sue confidenze devo la storia che sto per narrare. Non escludo di averla modificata, con le aggiunte e le ragioni proprie della presunzione di chi crede di trarre dalla storia di una vita il senso di una vita. Forse costituirà un attenuante confessare che in quel locale si consumavano bevande alcoliche in abbondanza e che mi parve indelicato sottrarmi alla consuetudine. Tutte le sere canto, perché mi pagano per questo. Ma le canzoni che hai ascoltato, scrittore, erano Pesignos e Zapateiras per i turisti di passaggio e per quegli americani che ridono là in fondo e che fra un po' se ne andranno barcollando. Le mie canzoni vere sono solo quattro Shamaritas, perché il mio repertorio è poco e poi io sono quasi vecchio, fumo troppo e la mia voce è roca. Mi tocca vestire questo balandrao azzoriano che si usava una volta, gli americani piace il pittoresco, poi tornano nel Texas e raccontano che sono stati in una bettola in un'isola sperduta delle Azzorre dove c'era un vecchio vestito con un mantello arcaico che cantava vecchie canzoni della sua gente. E io gli canto modignas sdolcinate dove la rima è sempre la stessa, ma tanto loro non capiscono e bevono gin tonico. Cosa cerchi, straniero? È la seconda volta che mi inviti a bere. Ordini vino di Sheiro come se tu fossi dei nostri. Sei straniero e fai finta di parlare come noi, ma bevi poco e stai in silenzio. Aspetti che parli io. Hai detto che sei scrittore. Forse il tuo mestiere ha qualcosa a che vedere col mio. Tutti i libri sono stupidi e c'è sempre poco di vero. Ne ho letti tanti negli ultimi 30 anni. Non avevo altro da fare. Ma tu sei giovane. Ho visto come guardavi la donna molto bella dal collo lungo. L'hai guardata tutta la sera. Anche lei ti guardava e forse... Sembrerà strano, ma mi ha risvegliato qualcosa. Forse sarà perché ho bevuto troppo. Ho sempre scelto il troppo nella vita. E questa è una dannazione, ma non ci puoi fare niente se sei nato così. Seja o que for que o amor me traga, sei que a primavera neste inverno ver que o olhar é de pequenas rugas e de flores não. Sonhar seu beijo na fronte, a luz no horizonte, como o primeiro raio do sol sentir por dentro da casa. Oh, Davanti alla nostra casa c'era una tafona, in quest'isola si chiamava così, era una specie di noria che girava in tondo. Ora non esistono più, ti parlo di tanti anni fa. Tu non eri ancora nato. Se ci penso sento ancora il cigolio, è uno dei rumori della mia infanzia che mi è restato nella memoria. Mia madre mi mandava con la brocca a prendere l'acqua e io, per alleviare la fatica, accompagnavo il movimento con una ninna nanna e a volte mi addormentavo davvero. Oltre la noria c'era un muro basso, imbiancato a calce, e poi lo strapiombo e in fondo il mare. Eravamo tre fratelli e io ero il più giovane. Mio padre era un uomo lento, misurato, con gli occhi così chiari che parevano d'acqua. La sua barca si chiamava Madrugada, che era anche il nomignolo di casa di mia madre. Mio padre era baleniere, come l'ha stato suo padre, ma in una certa epoca dell'anno, quando le balene non passano, praticava la pesca alle murene e noi andavamo con lui. Ora non si usa più così, ma quando io ero bambino si usava un rito che faceva parte della pesca. Le murene si pescano la sera, quando cresce la luna, e per chiamarle si usava una canzone che non aveva parole. Era un canto, una melodia, prima bassa e languida, e poi acuta. Non ho più sentito un canto con tanta pena. Sembrava che venisse dal fondo del mare o da anime perdute nella notte. Era un canto antico come le nostre isole. Ora non lo conosce più nessuno, si è perduto. E forse è meglio così, perché aveva con sé una maledizione o un destino, come una magia. Mio padre usciva con la barca di notte, muoveva i remi piano, a perpendicolo per non fare rumore, e noi altri, miei fratelli e mia madre, ci sedevamo sulla falesia e cominciavamo il canto. C'erano volte che gli altri tacevano e volevano che chiamassi io, perché dicevano che la mia voce era melodiosa come nessun'altra e che le murene non resistevano. Non credo che la mia voce fosse migliore di quella degli altri. Volevano che cantassi io solo perché ero il più giovane e si diceva che le murene amano le voci chiare. Forse era una superstizione senza fondamento, ma questo non importa. Poi noi crescemmo e mia madre morì. Mio padre si fece più taciturno e la notte stava seduto sul muro della falesia e guardava il mare. Ormai uscivamo solo per le balene, noi tre eravamo grandi e forti, e mio padre ci affidò arpioni e lance come la sua età esigeva. Poi un giorno i miei fratelli ci lasciarono per altre mete. Continuammo noi due ad andare a balene. Allora avevo 25 anni e mi piaceva giocare all'amore. Tutte le domeniche scendevo al porto e cambiavo innamorata. In Europa era tempo di guerra e nelle Azzorre la gente andava e veniva, ogni giorno una nave attraccava qui o altrove e a Porto Pin si parlavano tutte le lingue. La incontrai una domenica sul porto, vestiva di bianco, aveva le spalle nude e portava un cappello di trina. Sembrava scesa da un quadro e non da una di quelle navi cariche di persone che fuggivano nelle Americhe. La guardai a lungo e anche lei mi guardò. È strano come l'amore può entrare dentro di noi. In me entrò col notare due piccole rughe accennate che aveva intorno agli occhi e pensai così, non è più tanto giovane. Pensai così perché forse a quel ragazzo che ero, una donna matura sembrava più vecchia della sua età reale. Che aveva poco più di 30 anni lo seppi solo molto più tardi, quando sapere la sua età non serviva più a niente. Le detti il buongiorno e le chiesi se potevo esserle utile. Mi indicò la valigia che stava ai suoi piedi. Portala al bote, mi disse nella mia lingua. Il bote non è un luogo per signore, dissi io. Io non sono una signora, rispose, sono la nuova padrona. La domenica seguente scesi di nuovo in città. Il bote a quei tempi era un locale strano, non era esattamente una locanda per pescatori e io vi ero entrato solo una volta. Sapevo che c'erano due separé sul retro dove dicevano che si giocava di danaro. E la stanza del bar aveva una volta bassa con una specchiera arabescata e i tavolini di legno di fico. I clienti erano tutti stranieri. Pareva che fossero tutti in vacanza, in realtà passavano la giornata a spiarsi, ciascuno fingendo di essere di un paese che non era il suo, e negli intervalli giocavano a carte. Fayal in quegli anni era un luogo incredibile. Dietro al bancone c'era un canadese basso, con le basette appunto, si chiamava Denis. Vorrei parlare con la signora, gli dissi, la signora viene solo dopo le 8. Rispose con superiorità. Mi sedetti a un tavolo e ordinai la cena. Verso le 9 lei entrò. C'erano altri avventori. Mi vide e mi fece un saluto distratto. E poi si sedette a un angolo dove c'era un vecchio signore coi baffi bianchi. Solo allora sentii quanto fosse bella. Di una bellezza che mi faceva bruciare le tempie. Era questo che mi aveva portato lì, lo capii in quel momento e mi dette quasi una vertigine. Passai la sera a fissarla, coi pugni appoggiati alle tempie, e quando uscì la seguì a distanza. Lei camminava leggera, senza voltarsi, come chi non si preoccupa di essere seguito. Attraversò la porta della muraglia di Porto Pin e cominciò a discendere la baia. Dall'altra parte del golfo, dove termina il promontorio, isolata fra le rocce, fra un canneto e una palma, c'è una casa di pietra, forse l'hai già notata, ora è una casa disabitata, le finestre sono cadenti, ha qualcosa di sinistro, un giorno o l'altro crollerà il tetto se non è già crollato. Lei abitava là, ma allora era una casa bianca con riquadri azzurri su porte e finestre. Entrò e chiuse la porta. E la luce si spense. Io mi sedetti su uno scoglio e aspettai. A metà della notte si accese una finestra. Lei si affacciò e io la guardai. Le notti sono silenziose a Porto Pin. Basta sussurrare nel buio per sentirsi a distanza. Lasciami entrare, la supplicai. Lei chiuse la persiana e spense la luce. La luna stava sorgendo con un velo rosso di luna d'estate. Sentivo uno struggimento, l'acqua sciabordava attorno a me, tutto era così intenso, così irraggiungibile. E mi ricordai di quando ero bambino e la notte chiamavo le murene dalla falesia. E allora mi dette una fantasia, non seppi trattenermi e cominciai a cantare quel canto. Lo cantai mai, piano piano, come un lamento, una supplica, con una mano all'orecchio per guidare la voce. Poco dopo la porta si aprì e io entrai nel buio della casa e mi trovai fra le sue braccia. Mi chiamo Yeborat, disse soltanto. Io non sapevo cos'è il tradimento. Il tradimento, quello vero, è quando senti vergogna e vorresti essere un altro. E io avrei voluto essere un altro quando andai a salutare mio padre e i suoi occhi mi seguivano mentre fasciavo l'arpione con la tela cerata e lo appendevo a un chiodo di cucina e mi mettevo a tracolla la viola che mi aveva regalato per i miei 20 anni. Ho deciso di cambiare mestiere, dissi rapidamente. Vado a cantare in un locale di Porto Pim. Verrò a trovarti il sabato. E invece quel sabato non andai, e nemmeno il sabato seguente. E mentendo a me stesso mi dicevo che sarei andato il sabato venturo. E così venne l'autunno e passò l'inverno, e io cantavo. Facevo anche altri piccoli lavori, perché a volte certi avventori bevevano troppo e per sorreggerli o cacciarli era necessario un braccio robusto che Denis non possedeva. E poi ascoltavo quello che dicevano gli avventori. È facile ascoltare le confidenze degli altri quando si è cantante di taverna. E come vedi è anche facile farne. Lei mi aspettava nella casa di Porto Pim. E ormai non dovevo più bussare. Io le chiedevo, chi sei? Da dove vieni? Perché non andiamo via da questi individui assurdi che fanno finta di giocare a carte? Voglio stare con te per sempre. Lei rideva e mi lasciava intendere la ragione di quella sua vita e mi diceva, aspetta ancora un po' e ce ne andremo insieme. Devi fidarti di me, di più non posso dirti. Poi si metteva nuda alla finestra e guardava la luna e mi diceva «Canta il tuo richiamo, ma sottovoce». E mentre io cantavo mi chiedeva se la amassi e io la prendevo in piedi, appoggiata al davanzale, mentre lei guardava la notte come se aspettasse qualcosa. Successe il 10 di agosto. Per San Lorenzo il cielo è pieno di stelle cadenti, ne contai 13 tornando a casa. Trovai la porta chiusa e io bussai. Poi bussai di nuovo, con più forza, perché la luce era accesa. Lei mi aprì e restò sulla porta, ma io la scostai con un braccio. «Parto domani», disse. La persona che aspettavo è tornata. Sorrideva, come se mi ringraziasse. E chissà perché pensai che pensava al mio canto. In fondo alla stanza una figura si mosse, era un uomo anziano e si stava vestendo. «Che cosa vuole?» le chiese in quella lingua che io ora capivo. «È ubriaco», disse lei. «Una volta faceva il baleniere, ma ha lasciato l'arpione per la viola. Durante la tua assenza mi ha fatto da servo». «Mandalo via», disse lui senza guardarmi. C'era un riflesso chiaro sulla baia di Portopin. Percorsi il golfo come se fosse un sogno, non pensai a niente perché non volevo pensare. La casa di mio padre era spenta. Lui si coricava presto, ma non dormiva, come spesso succede ai vecchi che giacciono immobili nel buio come se fosse una forma di sonno. Entrai senza accendere il lume, ma mi sentì. «Sei tornato», mormorò. Io andai alla parete di fondo e staccai il mio arpione. Mi muovevo alla luce della luna. «Non si va alle balene a quest'ora di notte», disse lui dal suo giaciglio. «È una murena», dissi io. Non so se capì cosa volevo dire, ma non replicò e non si mosse. Mi parve che facesse un segno di saluto con la mano, ma forse fu la mia immaginazione o un gioco d'ombra nella penombra. Non ho più rivisto mio padre. Morì molto prima che scontassi la mia pena. Anche mio fratello non l'ho più rivisto. L'anno scorso mi è arrivata una sua fotografia. È un uomo grasso, coi capelli bianchi, circondato da un gruppo di sconosciuti che devono essere i figli, le nuore. Sono seduti sulla veranda di una casa di legno e i colori sono esagerati, come nelle cartoline. Mi diceva che se volevo andare da lui, là c'è lavoro. Per tutti la vita è facile. Mi è parso quasi buffo. Che cosa vuol dire una vita facile? Quando la vita è già stata. E se tu ti trattieni ancora un po' e se la voce non si incrina, stasera ti canterò la melodia che segnò il destino di questa mia vita. Non l'ho più cantata da 30 anni e può darsi che la voce non regga. Non so perché lo faccio. La regalo a quella donna dal collo lungo e alla forza che ha un viso di affiorare in un altro. Questo forse mi ha toccato una corda. E a te, italiano, che vieni qua tutte le sere e si vede che sei avido di storie vere, per farne carta ti regalo questa storia che hai sentito. Può darsi, puoi anche mettere il nome di chi te l'ha raccontata, ma non quello con cui mi conoscono in questa bettola. È un nome per i turisti di passaggio. Scrivi che questa è la vera storia di Lucas Eduino, che uccise con l'arpione la donna che aveva creduto sua a Portopin. Ah, su una sola cosa lei non mi aveva mentito, lo scopersi al processo. Si chiamava davvero Jeborah. Se questo può contare qualcosa.